Ad alta voce, Piero Baldini legge La ricorrenza di Howard Phillips Lovecraft, traduzione di Giovanna Scocchera. Ero lontano da casa e sentivo su di me l'incanto del mare orientale. Nella luce del crepuscolo lo udii battere sugli scogli e capii che mi attendeva appena oltre la collina, dove i sinuosi salici si piegavano al cielo sgombro e alle prime stelle della sera. E poiché i miei padri mi avevano richiamato all'antica cittadina che giaceva al di là del colle, avanzai tra la coltre di neve appena caduta lungo la strada, che si inerpicava solitaria, fino al punto in cui Aldebaran balenava fra gli alberi, e poi ancora avanti, verso quell'antico villaggio che mai avevo visto, se non nei miei sogni. Era Yuletide, la ricorrenza che gli uomini chiamano Natale, pur sapendo in cuor loro che è più antica di Betlemme e di Babilonia, più antica perfino di Menfi e dell'umanità stessa. Era Yuletide, e finalmente ero giunto all'antico villaggio costiero, dove la mia gente aveva dimorato e celebrato la ricorrenza all'epoca in cui era divieto, e dove loro stessi avevano ordinato ai propri figli di onorare quella ricorrenza ogni 100 anni, affinché il ricordo di primitivi segreti non venisse dimenticato. Il mio era un popolo antico, già antico quando questa terra era stata colonizzata, 300 anni addietro, e anche strano, perché dagli oppiacei e i giardini meridionali di orchidee era arrivato come un popolo oscuro e furtivo, che parlava un'altra lingua, prima di imparare quella dei pescatori dagli occhi azzurri. Ora erano dispersi e condividevano solo i rituali di misteri che nessuno tra quelli ancora in vita era in grado di comprendere. Io fui l'unico a tornare quella notte all'antica cittadina di pescatori, come voleva la leggenda, perché soltanto chi è povero e solo ricorda. E fu allora, oltre la cresta della collina, che vidi Kingsport spiegarsi come un velo di brina al calare della sera. Kingsport, innevata con i suoi antichi campanili e segnavento, travi e fumaioli, pontili e ponticelli, salici e cimiteri, infiniti labirinti di vicoli ripidi e tortuosi, e il vertiginoso picco centrale sormontato dalla chiesa, che neppure il tempo aveva osato alterare. Un incessante dedalo di case coloniali, accalcate e sparse su ogni angolo e livello, come costruzioni lasciate in disordine da un bambino, l'antichità si librava su ali grigie, sopra frontoni e spioventi imbiancati dall'inverno, lunette e finestre che si accendevano una a una nel freddo crepuscolo per unirsi a Orione e alle arcaiche stelle. E il mare batteva contro i pontili fradici, quel mare immemore e taciturno da cui la gente era arrivata in tempi antichi. Presso il punto più alto della strada si ergeva una vetta ancora più elevata, brulla e battuta dal vento, e vidi che era un camposanto con lapidi nere che spuntavano macabre dalla neve, come unghie decomposte di un gigantesco cadavere. La strada, priva di orme, era del tutto solitaria, e in qualche occasione mi sembrò di udire in lontananza un orribile cigolio, come di un patibolo battuto dal vento. Nel 1692 quattro dei miei antenati erano stati impiccati per stregoneria, ma non sapevo con esattezza dove. mentre la strada scendeva serpeggiando lungo il pendio rivolto al mare, mi misi in ascolto per cogliere i lieti suoni di una tipica serata di villaggio, ma non sentii nulla. Poi pensai alla stagione e compresi che questa vecchia gente puritana poteva senz'altro coltivare tradizioni natalizie a me estranee di silenzioso raccoglimento in preghiera davanti al focolare. E così non mi aspettai più di sentire espressioni di gaiezza o di incontrare un viandante, bensì continuai a scendere, superando fattorie illuminate e quiete e incerte mura di pietra, fino a dove le insegne di antichi negozi e taverne di marinai cigolavano al soffio della brezza salmastra e i grotteschi battenti di porte fiancheggiate da colonne scintillavano sulle viuzze sterrate e deserte alla luce di piccole finestre coperte da tende. Avevo visto qualche pianta del villaggio e sapevo dove trovare la casa della mia famiglia. Mi era stato detto che sarei stato riconosciuto e ben accolto, perché le tradizioni dei villaggi vivono a lungo. Dunque mi affrettai ad attraversare Back Street fino a Circle Court, poi proseguii sulla neve fresca e sull'unico tratto lastricato della cittadina fino al punto in cui si diparte Green Lane, dietro il mercato. Le vecchie cartine facevano ancora fede e non incontrai difficoltà. Ad Arkham, tuttavia, dovevano avermi mentito nel dire che qui circolavano i tram, dato che non avevo visto un singolo cavo sospeso. Ad ogni modo la neve avrebbe coperto i binari. Mi compiacqui per aver scelto di camminare, perché dalla cima della collina quel villaggio bianco e innevato mi era parso bellissimo. Ora ero impaziente di bussare alla porta della mia famiglia, la settima casa sulla sinistra in Green Lane, con un antico tetto a punta e un secondo piano aggettato, il tutto costruito prima del 1650. Quando giunsi alla casa le luci erano accese e dal vetro a losanghe della finestra vidi che doveva essere rimasta molto fedele al suo antico assetto. La parte superiore si proiettava sulla stradina erbosa fino quasi a incontrare il piano sporgente della casa di fronte, creando così una sorta di galleria con la bassa soglia di pietra del tutto scombra di neve. Non vi era marciapiede, ma molte case avevano porte rialzate che si raggiungevano tramite due rampe di scale con ringhiere di ferro. Mi sembrò una scena curiosa e poiché ero nuovo del New England non avevo mai conosciuto nulla di simile. Benché mi piacesse, l'avrei apprezzato di più se ci fossero state orme sulla neve, gente per le strade e qualche finestra che non avesse le tende tirate. Quando bussai all'antico battente in ferro, ero quasi spaventato. Si era formata in me una parziale paura, forse per la estraneità del mio retaggio, o la desolazione della serata, oppure la anormalità del silenzio in quell'antica cittadina di curiose tradizioni. E quando ricevetti risposta, la paura divenne totale, perché non avevo udito alcun rumore di passi prima che la porta si aprisse con un cigolio. Ma non dovetti temere a lungo, perché l'anziano signore in vestaglia e pantofole che si affacciò sulla soglia aveva un viso mite e rassicurante, e pur facendomi segno di essere sordo, scrisse un'antica e curiosa formula di benvenuto con lo stilo e la tavoletta di cera che recava con sé. Mi fece cenno di seguirlo in una stanza bassa a lume di candela, con un'imponente travatura e un mobilio spartano, scuro e rigoroso del XVII secolo. Il passato viveva ancora in quell'ambiente in ogni minimo particolare. Vi era un camino cavernoso e un arcolaio davanti al quale sedeva di spalle un'anziana curva con indosso una veste morbida e una cuffia con visiera ben calata sul viso, intenta a filare, silenziosa, nonostante il giorno di festa. Su tutta la stanza filtrava una vaga umidità e mi meravigliai che non ardesse alcuna fiamma nel focolare. La panca, a schienale alto, guardava verso una fila di finestre chiuse da tende sulla sinistra e sembrava occupata da qualcuno, benché non ne fossi del tutto sicuro. Non mi piacque tutto di ciò che vidi e avvertii di nuovo la stessa precedente paura. una paura alimentata da ciò che prima l'aveva ridotta, perché più guardavo il viso mite dell'anziano e più la sua mitezza mi terrorizzava. Gli occhi non si muovevano mai e la pelle era troppo simile a cera. Alla fine ebbi la certezza che non si trattava affatto di un viso, bensì era una maschera di diabolica perfezione. Tuttavia le mani fiacche e stranamente guantate scrivevano spedite sulla tavoletta dicendomi che dovevo attendere ancora un po' prima di poter essere accompagnato al luogo della ricorrenza. Dopo aver indicato una sedia, un tavolo e una pila di libri, l'anziano lasciò la stanza. E quando mi sedetti a leggere, vidi che i libri erano bianchi e ammuffiti e comprendevano il folle Marvels of Science del vecchio Morrister, il terribile Saducismus Triumphatus di Joseph Glanville, pubblicato nel 1681, la Demono Latreia di Remigio, stampata a Lione nel 1595, e, cosa peggiore di tutte, l'innominabile Necronomicon del folle arabo Abdul al-Hasrait, nella vietata traduzione latina di Olaus Formius, un libro che non avevo mai visto, ma di cui avevo sentito pronunciare cose mostruose. Nessuno mi rivolse la parola, ma sentivo il cigolio delle insegne fuori al vento e il ronzio della ruota mentre l'anziana, nascosta dalla cuffia, continuava in silenzio a filare e filare. La stanza, i libri e le persone mi parvero morbosi e inquietanti, ma poiché era stata un'antica tradizione dei miei padri a richiamarmi a questi strani anfitrioni, decisi di prepararmi a qualche stranezza. Provai dunque a leggere, e ben presto mi ritrovai tremante e rapito da qualcosa che avevo trovato in quel maledetto Necronomicon, un pensiero o una leggenda troppo spaventevoli per il buon senso e la ragionevolezza, ma che smisi di apprezzare quando mi sembrò di aver sentito chiudersi una delle finestre di fronte alla panca, come se qualcuno l'avesse aperta di nascosto. Quel suono era sembrato successivo a un ronzio che non era quello dell'arcolaio. Non voleva dire granché, tuttavia, perché l'anziana filava di gran lena e l'antico orologio aveva suonato a lungo le ore. Dopo quell'episodio non ebbi più la sensazione che qualcuno sedesse sulla panca e stavo ormai leggendo con fremente interesse quando l'anziano tornò con indosso degli stivali e un lungo costume d'altri tempi e si sedette proprio su quella stessa panca dove non potevo vederlo. Fu di certo un'attesa snervante, doppiamente tale per via del libro blasfemo che avevo in mano. Quando suonarono le 11, tuttavia, l'anziano si alzò, andò con passo leggero verso un enorme baule intagliato in un angolo della stanza e ne tirò fuori due mantelli con cappuccio. Ne indossò uno e appoggiò l'altro sulle spalle dell'anziana, che interruppe in quel momento il suo monotono filare. Si diressero entrambi alla porta d'ingresso. La donna con passo lento e claudicante, e l'anziano, dopo aver preso proprio il libro che stavo leggendo, mi fece cenno di seguirlo, mentre tirava il cappuccio su quel viso immobile, o maschera che fosse. Usciti, ci inoltrammo nel reticolo tortuoso e buio di quella cittadina antichissima. Uscimmo mentre le luci alle finestre velate dalle tende si spegnevano una a una e la stella del cane osservava maliziosa la moltitudine di figure ammantate e incappucciate che si riversavano mute da ogni soglia, formavano mostruose processioni lungo ogni strada, oltre le insegne cigolanti, gli spioventi antidiluviani, i tetti impagliati e i vetri a losanga delle finestre, percorrevano viuzze ripide dove le case in rovina si sovrapponevano e si sgretolavano una sull'altra, scivolavano su cortili aperti e cimiteri, creando spaventose costellazioni con l'ubriaco ondeggiare delle loro lanterne. Tra questa moltitudine silenziosa seguì le mie guide mute, sospinto da gomiti che sembravano di una morbidezza soprannaturale, addossato a torsi e ventri che sembravano stranamente carnosi, ma senza mai vedere un viso né sentire una parola. Su, su e ancora su salirono quelle misteriose colonne e vidi che il flusso dei viandanti convergeva su una sorta di fulcro di vicoli irregolari in cima a un'alta collina al centro del paese, dove era appollaiata una grande chiesa bianca. L'avevo notata dal punto più alto della strada quando avevo osservato Kingsport al crepuscolo e mi aveva fatto tremare, perché per un istante era sembrato come se Aldebaran si fermasse in bilico sulla sua guglia spettrale. Intorno alla chiesa vi era uno spazio aperto, adibito in parte a cimitero con i suoi lugubri obelischi, in parte a piazza semilastricata, dove la neve era stata spazzata via quasi del tutto dal vento, circondata da antiche case dall'aria malsana, con tetti a punta e spioventi a sbalzo. Fuochi, fatui, danzavano sopra le tombe, a rivelare macabri spettacoli, senza però stranamente creare alcuna ombra. Superato il cimitero, dove non vi erano case, riuscii a vedere oltre la vetta della collina e ad ammirare lo scintillio delle stelle sul porto, mentre la cittadina al buio era invisibile. Solo di tanto in tanto una lanterna oscillava orrendamente per i vicoli serpeggianti, diretta a raggiungere la moltitudine che ora si infilava muta in chiesa, attesi che la folla si riversasse oltre la soglia nera, che tutti i ritardatari si fossero accodati. L'anziano mi stava tirando per la manica, ma io ero deciso a essere ultimo. Quando varcai la soglia di quel brulicante tempio di oscurità sconosciuta, mi voltai una volta a guardare il mondo esterno, mentre la fosforescenza del cimitero proiettava un bagliore malsano sul selciato in cima alla collina. E allora fui percorso da un brivido, perché sebbene il vento non avesse lasciato molta neve, ne restava qualche chiazza sul sentiero vicino alla porta, e in quell'occhiata fugace, i miei occhi turbati, non scorsero alcun segno di passi recenti, neanche dei miei. La chiesa era scarsamente illuminata, nonostante tutte le lanterne che vi erano state portate, perché gran parte della folla era già svanita. Si erano incolonnati lungo la navata fiancheggiata da alti banchi fino alla botola dei sotterranei, che si schiudeva davanti al pulpito, e ora si calavano muti da quella apertura. Li seguii, inebetito, lungo gli scalini consumati e nella cripta buia, asfissiante. La coda di quella fila sinuosa di pellegrini notturni mi appariva spaventosa, e vederli infilarsi in una tomba antica mi apparve ancora più spaventoso. Notai poi che sul pavimento della tomba c'era un'apertura da cui scendeva quella moltitudine, e di lì a poco ci ritrovammo tutti a percorrere i gradini di una minacciosa scalinata di pietra, appena sbozzata, una stretta spirale umida dallo strano odore che si avvitava inesorabile nelle viscere della collina, superando monotone mura di mattoni gocciolanti e malta sgretolata. Fu una discesa silenziosa, orribile, e dopo uno spaventoso intervallo notai che mura e gradini erano ora di diversa natura, quasi fossero cesellati nella solida roccia. Ciò che più mi preoccupava era che la miriade di passi non produceva alcun suono, né riecheggiava in alcun modo. Dopo essere scesi per un tempo che mi parve interminabile, scorsi dei passaggi laterali o cunicoli che si dipartivano da sconosciuti recessi o oscurità fino a raggiungere questo pozzo di mistero notturno. Ben presto diventarono eccessivamente numerosi, come empie catacombe di anonima minaccia, e l'odore acre di putrefazione si fece insopportabile. Capii che avevamo attraversato la montagna e ora ci trovavamo sotto il suolo della stessa Kingsport, e rabbrividii al pensiero che una cittadina potesse essere così antica e brulicante di malvagità sotterranea. Poi vidi il sinistro bagliore di una luce fioca, e sentii l'insidioso sciabordio di acque tetere. Rabbrividii di nuovo, perché non mi piacevano le cose che la notte aveva portato con sé, e rimpiansi amaramente di essere stato convocato dai miei padri a questo rito primordiale. Mentre i gradini e il passaggio si ampliavano, sentii un altro suono, l'esile gemito di un flauto leggero, ed un tratto mi si aprì davanti lo spettacolo illimitato di un mondo sotterraneo. Una vasta spiaggia fungosa, illuminata da una colonna scoppiettante di malsane fiamme verdastre e lambita da un ampio fiume oleoso che scorreva terribile e inatteso dagli abissi per riversarsi nei golfi più neri di un oceano immemore. Ansimante, sul punto di svenire, guardai quel sacrilego erebo di funghi giganteschi, fuochi malati e acqua viscida, e vidi la moltitudine incappucciata che formava un semicerchio intorno al pilastro fiammeggiante. Era il rito di Yul, più antico dell'uomo destinato a sopravvivergli, il rito primigenio del solstizio, della promessa primaverile, dopo il disgelo, il rito del fuoco e del ritorno alla vita, della luce e della musica. E in quella grotta infernale li vidi eseguire il rito, adorare quel nauseabondo pilastro di fiamme, gettare nell'acqua manciata di quella vegetazione viscosa scavata dalla riva, dove scintillava verde in un bagliore clorotico. Vidi questo, e vidi qualcosa di amorfo, accovacciato, molto distante dalla luce, che soffiava fastidiosamente in un flauto. E mentre lo strumento suonava, mi sembrò di sentire un orribile ovattato fremito d'ali, nella fetida oscurità in cui non riuscivo a distinguere nulla. Ma ciò che più mi spaventava era la colonna di fiamme, un'eruzione vulcanica da profondità abissali e inconcepibili, che non proiettava ombre al pari di ogni normale fiamma, e rivestiva la roccia nitrosa di un mefitico e velenoso verderame. E in tutta quella combustione ribollente non c'era calore, solo l'umido gelo della morte e della putrefazione. L'uomo che mi aveva accompagnato in quel momento si dimenava verso un punto subito alle spalle di quella fiamma spaventosa e compiva rigidi movimenti cerimoniali rivolti al semicerchio su cui si affacciava. A tratti la folla si prosternava in una riverenza, soprattutto quando l'uomo sollevava sopra il capo l'abominevole Necronomicon che aveva portato con sé, e io mi univo a quelle prosternazioni perché ero stato convocato a quella ricorrenza dagli scritti dei miei padri. Poi l'anziano fece un segnale rivolto al flautista seminascosto nel buio, e il suonatore mutò il suo fievole e monotono ronzio in un altro appena più forte, ma di tonalità diversa, con il risultato di provocare un orrore tanto più impensabile e inatteso. Davanti a questo orrore quasi crollai sulla terra muschiosa, trafitto da un terrore né di questo né di nessun altro mondo, ma proprio solo delle folli distanze interstellari. Dall'inimmaginabile oscurità, oltre il bagliore cancrenoso di quella fredda fiamma, dai gironi tartarei attraversati da quel fiume oleoso, inquietante, inaudito e insospettato, si mosse ritmicamente un'orda di ibridi esseri alati, docili e addestrati, che nessun occhio sano avrebbe mai potuto comprendere appieno, né cervello sano avrebbe potuto ricordare. Non erano in nessun modo simili a corvi, né talpe, o poiane, formiche, o pipistrelli vampiro, né esseri umani decomposti, bensì qualcosa che non posso e non devo riportare alla mente. Ballonzolavano flosci, in parte sulle zampe palmate, in parte su un volo di ali membranose, e quando raggiunsero la moltitudine dei celebranti, le figure incappucciate li afferrarono e salirono loro in groppa e via, lungo il corso di quel fiume senza luce, in fosse e gallerie di panico, dove sorgenti mefitiche alimentano cateratte spaventose e inesplorate. L'anziana, che era all'arcolaio, aveva seguito la folla, mentre l'uomo era rimasto solo perché a un suo cenno mi ero rifiutato di afferrare un animale e cavalcarlo come tutti gli altri. Rialzandomi barcollante, vidi che il flautista morfo era scomparso alla vista, ma che due di quelle bestie erano impazienti e attesa. Mentre mi attardavo, l'anziano estrasse stilo e tavoletta e scrisse che lui era il messaggero dei miei padri, coloro che avevano istituito il culto di Yul in quel luogo antico. Scrisse anche che era stata decretata la necessità del mio ritorno e che i misteri più segreti non erano ancora stati espletati. Scrisse tutto ciò in una calligrafia molto antica e, visto che io continuavo a esitare, estrasse dalla sua ampia veste un anello con sigillo e un orologio, entrambi con lo stemma di famiglia, a dimostrazione che era ciò che diceva di essere. Ma si trattava di una prova odiosa, perché sapevo da antiche carte che quell'orologio era stato seppellito insieme a un mio antenato nel 1689. In quel momento l'anziano ritrasse il cappuccio e indicò la somiglianza familiare del viso, ma non potei fare altro che rabbrividire, perché sapevo con certezza che quel viso era solo una diabolica maschera di cera. Quei goffi animali stavano ora raspando irrequieti i licheni, e vidi che l'anziano era irrequieto quasi quanto loro. Quando una delle creature cominciò a ondeggiare e ad allontanarsi, l'uomo si girò di scatto per fermarla, e la rapidità del movimento fece cadere la maschera di cera da quella che avrebbe dovuto essere la sua testa. E allora, poiché quella bestia da incubo mi impediva di raggiungere la scalinata di pietra da dove eravamo arrivati, mi lanciai nell'oleoso fiume sotterraneo che correva schiumoso verso le cavità marine. Mi lanciai nell'umore putrescente delle orrende viscere della terra, prima che la follia delle mie grida potesse farmi piombare addosso le legioni spaventose che queste abissime stilenziali potevano di certo nascondere. In ospedale mi dissero che ero stato ritrovato alla rada di Kingsport. All'alba, semiassiderato, aggrappato al palo che il caso aveva mandato a salvarmi. Mi dissero che avevo preso la diramazione sbagliata della strada sulla collina la notte precedente ed ero precipitato dalla scogliera a Orange Point, cosa che avevano dedotto dalle orme trovate sulla neve. Non c'era nulla che potessi dire, perché era tutto sbagliato. Era tutto sbagliato. Le ampie finestre che si affacciavano su un mare di tetti di cui solo uno su cinque era antico. Il suono di tram e motori nelle strade giù sotto. Insistevano col dirmi che quella era la cittadina di Kingsport. E certo, non potevo negarlo. Quando mi dissero che l'ospedale era situato vicino all'antico cimitero di Central Hill, cominciai a delirare e fui mandato al St. Mary's Hospital di Arkham, dove mi avrebbero prestato cure più adeguate. Mi piaceva stare lì. I medici erano di ampie vedute e usarono le loro conoscenze per procurarsi una copia dell'alquanto discutibile Necronomicon, gelosamente custodita nella biblioteca della Miskatonic University. Parlarono di psicosi e convenni con loro sulla necessità di togliermi dalla mente ogni ossessione molesta. Così lessi quell'odioso capitolo. Era brividì doppiamente, perché in effetti non mi era nuovo. Lo avevo visto prima che ne dicessero le impronte, e di quel luogo in cui l'avevo visto era meglio non serbare ricordo. Nessuno nelle ore di veglia poteva aiutarmi a ricostruire l'accaduto, ma i miei sogni erano colmi di terrore per via di frasi che non oso ripetere. Mi arrischio a citare un solo paragrafo, tradotto per quello che posso dal basso latino. «Le caverne più infime», scrisse il folle arabo, «non sono fatte per essere indagate da occhi che vedono, perché le loro meraviglie sono strane e terribili. Maledetto il suolo dove i defunti pensieri rivivono in corpi bizzarri, e malvagia è la mente che non è sorretta dal capo. Ibn Shakabau fu saggio nel dire che lieta è la tomba dove non giace alcuno stregone, e lieta è la notte nella città i cui stregoni sono tutti ridotti in cenere. Perché un'antica leggenda vuole che l'anima di chi si è venduto al demonio non anela a distaccarsi dalla creta del corpo, bensì ingrassa e alimenta il verme stesso che lo divora, fino a quando dalla putrefazione un'orrida vita risorge e gli striscianti scarafaggi della terra proliferano scaltri per affliggerla e si gonfiano mostruosi per tormentarla. Grandi buche vengono scavate in segreto laddove dovrebbero bastare i pori terrestri e ciò che dovrebbe strisciare ha imparato a camminare.